Minerva. Approfondimenti culturali quotidiani. Perché la cultura serve a non servire. E anche oggi un buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Città Fujiko 103.1 FM. Bentornati e bentornate in una nuova puntata di Minerva. Siamo già arrivati a martedì 19 gennaio, se non mi sono persa qualche giorno per strada, ma dovrebbe essere giusto. Siamo sempre qua in diretta su Radio Città Fujiko 103.1 FM per una mezz'oretta insieme, quindi da mezzogiorno e mezza fino alle 13, come sempre per parlare di approfondimenti culturali, quindi nuovi argomenti che hanno a che fare con la cultura che tanto ci interessa, tante chiacchiere come sempre e ovviamente anche della buona musica. E prima di anticiparvi appunto come sempre il menu della puntata, vi volevo ricordare tutti i vari contatti con i quali raggiungerci, perché vi aspettiamo in diretta al 333 180 9494. Potete mandarci un, come si dice, un classico messaggio, insomma un SMS, oppure su WhatsApp o su Telegram se preferite queste piattaforme, queste app sul vostro telefono, ma il numero rimane sempre lo stesso, 333 180 9494. Vi aspettiamo, mi raccomando, fateci sapere se siete sempre connessi su Radio Città Fujiko. Non vi citerò, o meglio ve lo cito, ma è momentaneamente offline, fuori uso, il nostro sito che è www.radiocittafujiko.it. Purtroppo stiamo avendo dei problemini tecnici che da ieri ci hanno mandato offline, quindi il sito appunto momentaneamente non funziona, ma speriamo di di riattivarlo il prima possibile. Nel frattempo rimaniamo attivi sui nostri canali social, quindi Facebook, Instagram e Twitter, anche il nostro canale YouTube. Iscrivetevi e insomma entrate a far parte della grande comunità di Radio Città Fujiko per rimanere sempre attivi con tutte le nostre, tutti i nostri approfondimenti, sia della redazione culturale che ovviamente anche attualità e politica, e la nostra amata redazione musicale. Bene, fatti tutti quanti convenevoli, così sapete come seguirci non solo in diretta sui 103.100, ma anche appunto online. Fatti tutti questi quanti, tutti questi convenevoli, possiamo passare invece al menu di questa puntata di Minerva di oggi, martedì 19 gennaio. Ovviamente anche oggi si parlerà di cultura, perché è immancabile nel format di approfondimenti culturali. Ho avuto il piacere qualche giorno fa di intervistare Caterina Pastura, una degli editor di Mesogea. Mesogea è una casa editrice totalmente italiana, anzi nello specifico siciliana, una piccola casa editrice che appunto pubblica sia libri che graphic novel, saggi, romanzi, poemi, sia dei classici che anche libri per ragazzi, quindi veramente una vastissima scelta per questa casa editrice con cui ho già collaborato altre volte. Mi piace molto, pubblicano veramente dei libri interessanti. E appunto, nonostante questo periodo di pandemia che sicuramente ha messo un po' in ginocchio la cultura italiana e non solo, Mesogea come casa editrice non si è fermata, perché ha continuato le sue pubblicazioni e negli ultimi mesi ha pubblicato ben 4 libri di tipologie differenti tra loro. Oggi insieme a Caterina Pastura andremo a parlare di 2 di queste nuove uscite in catalogo per Mesogea, mentre domani analizzeremo meglio altre 2. Oggi parleremo di Il treno di Salah El Mour, la storia di un viaggio in un albo bilingue tradotto per la prima volta dall'arabo in italiano, illustrato dallo stesso autore. Il treno incanterà i bambini che già leggono da soli, ma anche gli adulti che lo leggeranno insieme ai più piccoli. Quindi Il treno è appunto un racconto illustrato per bambini e per bambine, ma che strizza l'occhio anche un po' agli adulti, che non gli fa mai male insomma leggere un libro per bambini. Mentre la seconda uscita, la nuova uscita editoriale di Mesogea è Back Way, a cura di Gianluca Costantini. Back Way è una raccolta di fumetti, infatti sono 10 i fumettisti che hanno messo la loro arte a disposizione per appunto trattare di migrazione. Questa raccolta di fumetti, come vi dicevo, è a cura di Gianluca Costantini, e anche di questa Caterina Pastura ce ne ha parlato nell'intervista che ascolteremo dopo. Oltre quindi all'approfondimento, all'intervista classica di Minerva, ovviamente non mancherà neanche la nostra agenda degli appuntamenti, quindi tutti quegli eventi di martedì 19 gennaio che caratterizzano la nostra città, la nostra Bologna. Ma a proposito di cultura e quindi anche di musica, perché la musica comunque fa sempre parte di questo grande recipiente che è la cultura, oggi ho voluto unire Mesogea, che è appunto una casa editrice che fa parte del Mediterraneo, della Sicilia, che nasce in Sicilia, con appunto la musica. Quindi ho scelto un autore, un cantautore doc siciliano. Lui è Franco Battiato, che è nato a Ionia in Catania, appunto cantautore, compositore, musicista, regista, anche pittore, chi più ne metta. E ho scelto per la playlist di Minerva di oggi di inserire proprio lui, per tornare ancora meglio nelle origini siciliane sia della casa editrice che appunto di Franco Battiato, che ci andiamo a sentire adesso con Centro di Gravità Permanente. Di carta, di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Raccogliere ortiche. Non sopporto i cori russi, la musica finto rock, la new wave italiana, il free jazz punk inglese, neanche la nera africana. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Over and again. sulle note finali di Centro di Gravità Permanente di Franco Battiato torniamo in diretta su Radio Città Fujiko. State ascoltando Minerva con la voce e la regia di Rachele Copparoni. E questa canzone, prima non vi ho detto così un po' di info al riguardo, ma forse lo saprete già perché è uno dei pezzi sicuramente più famosi di Battiato. Comunque viene tratto dall'album La voce del padrone, pubblicato nel 1981 dalla casa discografica EMI Italia, considerato una delle pubblicazioni più importanti proprio della musica italiana, nonché anche uno dei titoli migliori di Battiato. La voce del padrone fu anche il primo long playing a superare il traguardo del 1 milione di copie vendute in Italia. Quindi condusse questo album definitivamente alla fama dell'artista siciliano, rimanendo il suo più grande successo. Tra l'altro l'album restò al primo posto in classifica per 18 settimane non consecutive fra maggio e ottobre dell'82, quindi dell'anno dopo in cui era uscito, ma sicuramente uno di quegli album, e questo è uno dei brani che sono rimasti decisamente nella storia. E poi dopo ce ne andremo a sentire anche un altro sempre tratto dallo stesso album, La voce del padrone. E rimanendo in tema Sicilia, perché appunto, come vi dicevo prima, Franco Battiato non è stato scelto a caso, perché è un personaggio, una persona siciliana doc. Ci spostiamo dalla Sicilia dei cantanti alla Sicilia delle case editrici, perché torniamo a parlare di Mesogea. Come vi dicevo, Mesogea è una casa editrice indipendente made in Sicilia, quindi nasce e prende corpo a Messina, tra Scilla e Cariddi, un luogo che per loro, come dicono appunto loro stessi, è un richiamo alla responsabilità. Qui si è costretti a fare continuamente i conti con mitologie remote e catastrofi quotidiane. Quindi vi volevo leggere così giusto due righe della sinossi, chiamiamola così, della loro casa editrice. Il Mediterraneo, mare e mito, ponte e frattura, città sacre e inferni di crudeltà, è lo stesso spazio del viaggio editoriale che Mesogea ha intrapreso nel 1999 per conoscere e dar voce alle molteplici identità di un arcipelago di popoli, di culture, di storie spesso reciprocamente ignorate e rimosse. Ecco, questo è come si presenta la casa editrice Mesogea. Io ho avuto il piacere di parlare con Caterina Pastura, di intervistarla. Lei è un editor appunto della casa editrice Mesogea. Ci ha raccontato alcune nuove uscite di questi ultimi mesi all'interno del catalogo di Mesogea. Oggi nello specifico andremo a parlare di due libri. Il primo è per i bambini, ma come dice la stessa Caterina, non farebbe male leggere anche agli adulti. Questo libro si chiama Il treno di Salah El Mour, mentre il secondo è una raccolta di fumetti. Hanno partecipato 10 fumettisti che hanno messo la loro arte a disposizione per parlare di migrazioni. Il titolo di questa raccolta di fumetti è Back Way, a cura di Gianluca Costantini. Ma non vi anticipo altro, perché Caterina ci racconta benissimo queste nuove uscite editoriali, quindi andiamo a sentirci la sua intervista. Siamo al telefono con Caterina Pastura. Buongiorno Caterina e benvenuta. Buongiorno, grazie. Allora, diciamo che nonostante il periodo così un po' complicato, Mesogea non si è fermata e ha continuato a pubblicare. Nello specifico, negli ultimi mesi sono uscite 4 novità nel vostro catalogo. Partiamo dalla prima, che è dedicata, diciamo, al mondo dei più piccoli, che è Il treno di Salah El Mour. Sì, Mesogea non si è fermata, come credo nessun editore possa essersi fermato in questo periodo, semmai si tratta appunto di riorganizzarsi e rimettere a registro alcune cose necessariamente. Allora, noi abbiamo continuato con il nostro programma e abbiamo continuato riprendendo dai libri per ragazzi, da Mesogea Ragazzi, con il libro di Salah El Mour, tradotto dall'arabo da Anita Magno, e si tratta di un libro che tecnicamente ha il formato si direbbe dell'albo, cioè un libro per bambini dai 3 anni in su, ma anche qui le categorie sono discutibili, perché i libri per bambini, se fossero letti da grandi, sarebbe il massimo della gioia per tutti noi e soprattutto dell'efficacia per la lettura. Quindi diciamo che parte dai 3 anni e può arrivare ai 303 almeno. È la storia di un viaggio e insieme di un sogno, illustrato magnificamente dall'autore, e procede secondo il criterio del viaggio in treno. Quindi questo bambino si affaccia insieme alla mamma, che viaggia con lui per andare a trovare la nonna, e ad ogni stazione vede qualcosa di particolare, e in questo vedere si snodano le immagini e il racconto, e l'idea stessa del viaggio diventa storia di una fantasia, storia di un viaggio vero e proprio, e della cerniera tra le due cose, cioè sogno del viaggio e il viaggio del sogno. Tant'è vero che la conclusione poi della maniera in cui noi abbiamo semplicemente pensato di proporlo a grandi e piccini è che appunto la storia di un viaggio speciale, o forse del sogno di un viaggio, è comunque l'importante è viaggiare ed è sognare. La cosa molto bella di questo libro è la ricchezza delle immagini, senz'altro, la semplicità ma anche l'intensità del testo, che appunto fa navigare il lettore tra realtà e fantasia, e non divide, diciamo, il rapporto che c'è tra il testo e l'immagine stessa. Questo traccia una linea di evoluzione di Mesogea Ragazzi, che è quella per cui noi teniamo particolarmente a testi in cui le lingue e la traduzione siano l'elemento cruciale, cioè il passaggio da una lingua all'altra e la presenza anche visiva di tutte e due le lingue, per cui il libro è col testo a fronte, in italiano ad arabo, più che a fronte, diciamo che uno accompagna l'altro, e quindi si ha modo anche di passare nella suggestione grafica di un'altra lingua. I libri bilingue per i bambini in particolare, ma ripeto anche per gli adulti, sono fondamentali proprio per acquisire un'idea dell'altro, della presenza dell'altro, della diversità, ma anche una possibilità in più per permettere appunto la propria stessa identità. Quindi è come entrare in un mondo che è fatto di segni grafici, di immagini, di parole, di suoni, e questa è un po' la traccia che noi ci siamo dati, in particolare per Mesogea, ma vale un po' per tutta la casa editrice, che la presenza di culture diverse, la testimonianza di culture diverse in tutte le forme che queste culture propongono: il racconto, l'immagine grafica, il segno e il passaggio da una lingua all'altra, quindi la traduzione. Un altro libro in cui sicuramente le immagini fanno da padrone è la raccolta di fumetti Back Way, a cura di Gianluca Costantini. Sì, senz'altro. Infatti, quanto dicevo prima a proposito della molteplicità linguistica, della diversità dei registri di percezione del libro, si riproduce molto più ampiamente in Back Way, Viaggi di sola andata con ritorno, e questo è il sottotitolo, che raccoglie le opere, le testimonianze, il racconto grafico e narrato di 10 autori del fumetto, coordinati da Gianluca Costantini, e quindi si tratta dell'esito di un lavoro collettivo, e questa è una cosa che ci sta particolarmente a cuore, perché appunto qui la creatività, il racconto, il rapporto problematico con uno dei temi fondamentali del nostro tempo, cioè la migrazione, viene raccontato, dispiegato e illustrato in 10 modi diversi, in 10 lingue diverse, che però diventano tutt'una, nel senso che sono tutte raccontate in italiano, però le provenienze, anche le storie creative di ognuno dei narratori e degli illustratori stanno insieme in questa loro disomogeneità, che diventa anche un modo per raccontare la molteplicità sia del nostro mondo che del fenomeno stesso della migrazione. Quindi una maniera di attraversare i temi nel nostro tempo, che sono declinati con, tra virgolette, una leggerezza che non è superficialità, ma anzi al contrario è leggerezza, perché propone un'attenzione a qualcosa di molto serio, di molto profondo come la migrazione appunto, ma anche le vite e le biografie di tutti coloro che la vivono e i diversi modi di affrontarla. Quei il racconto di una di qualcosa che non è mai semplice per chi la vive, come appunto la migrazione, lo spostamento, il dover abbandonare le proprie origini, ma che contiene in sé, oltre a una alta soglia di drammaticità, anche una scelta. E da questo punto di vista i racconti che ne vengono fuori, che sono completamente diversi l'uno dall'altro, hanno questo fil rouge nel cercare di proporre nella diversità del segno e della narrazione anche la complessità del problema. Che mi tiene alta la vita, la passione nella gola, l'eros che si fa parola. Le tue strane inibizioni non fanno parte del sesso, i desideri mitici di prostitute libiche, il senso del possesso che fu prealessandrino. La tua voce come il coro delle sirene di Ulisse mi incatena, ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo. È bellissimo perdersi in questo incantesimo. Corpo pronti per l'accoppiamento, nel Giappone delle geishe si abbandonano all'amore. Le tue strane inibizioni che scatenano il piacere, lo shivaismo tantrico di stile dionisiaco, la lotta pornografica dei greci e dei latini. La tua pelle come un'oasi nel deserto ancora mi cattura, ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo. ed è bellissimo perdersi in questo incantesimo. Questo era il sentimento nuovo, sempre di Franco Battiato, e torniamo in diretta alle 12:55 su Radio Città Fujiko 103.1. State ascoltando Binerva con la voce e la regia di Rachele Copparoni, e torniamo appunto in diretta dopo aver ascoltato Battiato, un altro brano sempre tratto dall'album La voce del padrone, questa ode all'amore, come dire, carnale, all'amore fisico, che si trova appunto nel lato B del CD La voce del padrone. E dopo questo giro in Sicilia, partendo dalla casa editrice Mesogea fino ad arrivare a Franco Battiato, siciliano catanese doc, torniamo a parlare di Bologna, della nostra amata Bologna, con la nostra agenda degli appuntamenti, quindi tutti quegli eventi che caratterizzano la giornata di oggi, martedì 19 gennaio. E partiamo da un evento alle ore 20 sulla pagina Facebook del Museo Civico del Risorgimento, La storia a porte chiuse di Carlo Pelagalli, con appunto Carlo Pelagalli, che è uno storico, in diretta a Facebook sulle pagine del Museo Civico del Risorgimento e della Certosa di Bologna. Lo storico prosegue i suoi approfondimenti sulla storia toponomastica del centro storico di Bologna, in particolare gli odonimi e fitonimi legati al mondo vegetale, cioè che cosa sarebbero i nomi di vie derivati dai nomi di piante o alberi. Mi sembra un argomento un po' particolare, ma perché no, interessante. La storia a porte chiuse propone un palinsesto di dirette Facebook che vede alternarsi diverse voci per condividere insieme l'arte e la storia, occasioni per stare qualche minuto in compagnia e offrire spunti per approfondire da casa eventi, persone e opere d'arte del nostro paese, soprattutto di Bologna. Al termine di ogni diretta gli utenti possono dialogare con l'autore del contributo video nei commenti appunto al video stesso. E passiamo invece ad un evento per i più piccini, ne abbiamo anche parlato prima con il libro Il treno, pubblicato da Mesogea. La biblioteca di pubblica lettura per il quartiere Porto George Louis Borges alle ore 18 presenta Storie d'inverno online. L'inverno è ormai arrivato, quindi scaldiamoci con delle storie. Si continuano a leggere insieme gli albi illustrati più coinvolgenti e divertenti insieme a bambine e bambini dai 4-8 anni e alle loro famiglie. L'appuntamento è ovviamente online tutti i martedì alle ore 18, quindi tutti i martedì sapete dalle 18 in poi che cosa far fare ai vostri bimbi che si annoieranno a casa. E concludiamo con l'ultimo evento per il Black History Month of Bologna. Oggi dalle 14 alle 16 si terrà l'incontro online sulla loro pagina Facebook Critiche, limiti, finalità e conseguenze del movimento della SAPE. L'obiettivo di queste sessioni è quello di presentare il movimento del SAPE nel suo contesto storico e geografico, quindi le sue origini, il suo sviluppo e anche la sua evoluzione. Per chi come me non sapesse che cos'è la SAPE, perché sono andato a cercarlo, tradotto in italiano è la Società delle persone creatrici di atmosfera ed eleganti. È un movimento sociale nato a Brazzaville, capitale della Repubblica del Congo. Il movimento abbraccia l'eleganza nello stile e nelle maniere dei dandy dell'era coloniale come mezzo di resistenza al colonialismo belga. E sono già le 12:58, quindi come sapete è arrivato il momento dei saluti. Io anche oggi vi auguro una buona giornata e un buon pranzo. Noi ci risentiamo sempre domani da mezzogiorno e mezza alle 13, sperando che anche il nostro sito ritorni attivo. Nel frattempo vi lascio al meraviglioso jingle di Willy dedicato a Minerva, un po' di pubblicità e poi il GR, quindi tutte le notizie dall'Italia e dall'estero. Ciao a tutti e a tutte. Il ritorno di Minerva con Rachele Copparoni, una cultura che è sempre titolare e mai di riserva. Hey, yeah, the dues for loving you. If loving you-